διαδικασία. Πέτα το άγχος και το στρες και πάμε παραλία για να απολαύσουμε και φέτος. Πολύχρωμα μπικίνι όταν σας βλέπω, κορίτσια. Η καρδιά μου ανοίγει πάντα ένα μέρα και ουλαλαλα. Καυτά σοκολατένια, γυναικεία κορμιά. Ένα προς ένα ανοίγουν δεξιά και αριστερά. Παίρνω άλλον αέρα από τα Κανάρια νησιά. Hasta la vista και la vida loca. Στην παραλία οργανώνω από σε κόλπα. Βάζω φωτιά. Questa è la voce di Pablo Sfissas, il compagno operaio e rapper assassinato dai fascisti di Alba Dorata nel settembre del 2013 ad Atene. E con questa musica dalla Grecia iniziamo la redazionale sulla situazione in calcidica. E di questa situazione, la calcidica è una regione a nord della Grecia, a nord est della Grecia, e abbiamo già parlato varie volte sia con un compagno qui in studio che viene appunto da uno dei paesi che si trova nella zona interessata dalla costruzione di miniere a cielo aperto per l'estrazione dell'oro. Ne abbiamo parlato diverse volte, dicevo anche nel corso della mattinata che potete con un po' di pazienza trovare i redazionali che abbiamo fatto negli anni scorsi su questa vicenda. Brevemente, è una storia che comincia parecchi anni fa, è una zona già dai tempi antichi destinata all'estrazione dell'oro. In realtà ora l'oro è in percentuale, in concentrazione molto bassa, ma con questi sistemi estremamente devastanti di estrazione a cielo aperto, l'Hellenic Gold, che è questa società a capitale canadese che ha avuto per un pezzo di pane la possibilità di sfruttare queste terre, si tratta comunque di un affare buono, perché dicevo queste metodiche di estrazione, oltre a devastare il territorio, garantiscono evidentemente un guadagno consistente, anche e soprattutto perché il prezzo dell'oro dall'inizio di questa crisi mondiale è continuato come bene rifugio ovviamente a salire. E contemporaneamente a questo insediamento, all'inizio degli scavi, degli interventi, è iniziata ovviamente anche l'opposizione delle popolazioni locali, che ricorda un po' per certi versi quello che sta accadendo in Italia per quanto riguarda la lotta contro il treno ad alta velocità in Val di Susa, una grande mobilitazione appunto delle popolazioni locali, perché poi le compagne che sono qui ce lo spiegheranno bene, anche perché hanno visto pochi giorni fa la situazione ambientale di una zona che è votata da secoli, possiamo dire, all'agricoltura e poi forse più recentemente anche al turismo. La calcidica è una delle mete privilegiate del turismo in Grecia, si trova vicino alla seconda città della Grecia che è Salonicco, ed è una zona veramente bellissima dal punto di vista naturale, un mare bello, e ci sono appunto, oltre all'attività agricola, numerosi insediamenti che si sono via via ingranditi e che sono appunto, vivono soprattutto di turismo. È quella regione, se riuscite a visualizzarla mentalmente, appunto a nord-est della Grecia, sono tre dita, diciamo così, tre penisole che si protendono appunto nel mare e che, ripeto, sono estremamente belle. Una di queste è quella cosiddetta del Monte Athos, a nord della quale insiste proprio il paese di Erissos, poi ne parleremo, che è un paese appunto a vocazione turistica che è stato particolarmente colpito dalla repressione poliziesca e governativa, perché ovviamente come succede anche da noi, nessuna voce si dà alle popolazioni locali, nessun tipo di possibilità di interloquire o di far valere le proprie ragioni. E anche ovviamente non solo per quanto riguarda le popolazioni, ma anche per quanto riguarda le amministrazioni locali. Allora io chiederei adesso alle compagne che sono qui di un po' riassumere quali sono i danni ambientali che le popolazioni denunciano e che subiscono, tanto per avere un quadro di quello che questo tipo di estrazione sta provocando in questo bellissimo territorio. Ciao, buongiorno. Ciao a tutti. Allora, sì, vi racconto un po' quello che abbiamo visto facendo un giro su questa montagna. Ormai dal 2006 ci sono movimenti, insomma, che organizzano la popolazione si è organizzata per contrastare i lavori delle miniere. Sono passati quindi dal 2006 quanti anni? Otto anni, e abbiamo fatto un giro una settimana fa e la situazione è drammatica. Questo è un bosco che in parte è un bosco sfruttato per il legname che serve alle popolazioni locali. Solo una parte, però, è un bosco quindi che viene tagliato con criterio, con tecniche particolari che permettono poi di farlo ricrescere, mentre una parte, una porzione molto grande, è un bosco lasciato così da sempre, quindi è un bosco primigenio, un bosco che non è stato mai toccato. E ci sono esemplari vecchissimi di quercia, ma anche faggi, anche platani più in basso, castagni, e adesso Sambuco. Adesso hanno cominciato a scavare i due invasi, i due bacini che conterranno le terre di riporto, che sono la terra che verrà estratta con la dinamite dal cratere centrale. È una miniera a cielo aperto, un open pit, che sarà profonda circa 400 metri, ma anche di più credo, e ci avrà il cratere centrale sarà di un chilometro, ma bisogna pensare anche a tutte le altre strade di connessione che stanno costruendo su per la montagna, e lo stabilimento, insomma tutto l'impianto che permetterà il lavaggio del terreno, più questi due invasi. Quindi una zona, si parla di un taglio di 250 ettari di bosco è previsto inizialmente, ma probabilmente se l'affare andrà bene, è probabile che siano date altre concessioni. In effetti in Grecia la legge sulle concessioni minerarie risale ai tempi della dittatura e non è cambiata di una virgola. Anche per questo lo Stato greco non avrà un grosso guadagno da tutta questa attività di estrazione, ma il grosso guadagno andrà appunto a questa multinazionale con grossi capitali canadesi, e tutto l'oro che dovrebbe salvare la Grecia dalla crisi, così l'hanno presentato insomma sia il precedente governo sia adesso dopo le ultime elezioni, tutto quest'oro che doveva salvare la Grecia in realtà uscirà dalla Grecia, e è un'altra, un po' come qui le grandi opere anche in Italia, insomma, dove sembra che se non si realizzino chissà dove finirà l'economia, insomma, del paese, ma non è questa la soluzione. Sì, direi anche un rientro minimo di posti di lavoro, insomma, no? Comunque che certamente non e ha creato anche dei problemi, poi ne parleremo, all'interno delle dinamiche nella stessa popolazione della zona. Ricordiamo che questo tipo di estrazione presuppone appunto la massiccia estrazione di terreno, quindi così com'è, tal quale, che poi viene processato, lavorato con mezzi chimici, di cui forse sì, tu ne sai più di me, e che per estrarre appunto la quantità d'oro, che io adesso non ricordo in che percentuale è, ma ripeto è molto bassa. E il problema, oltre al cratere che hai descritto e che già insomma è abbastanza impressionante, e la distruzione del bosco sia per l'abbattimento degli alberi che per la costruzione delle infrastrutture, c'è anche questo problema appunto delle sostanze chimiche che vengono usate per separare l'oro dal resto del materiale terroso. Sì, il contenuto di oro è stimato tra 0,18 e 0,82 grammi per tonnellata. quindi è una percentuale bassissima. Nonostante questo hanno ritenuto vantaggioso fare questa estrazione. Le polveri che verranno alzate appunto dalla dinamite, dalle esplosioni che ci saranno, raggiungeranno sicuramente anche la città di Salonicco. Anche lì, diciamo, la comunità è allertata, soprattutto la comunità scientifica, anche ci stanno, diciamo, professori universitari che si sono riuniti volontariamente per mettere a punto degli studi su quello che può essere, che possono essere conseguenze sulla salute, sull'acqua e su tutti, insomma, i beni di tutti. E nonostante questo, lo studio di impatto ambientale presentato dalla ditta nel 2012, non mi ricordo, insomma l'ultimo che hanno presentato, è stato approvato dal governo, non tenendo in considerazione parecchi aspetti, tra cui uno molto importante è che, oltre a questa minima quantità d'oro che c'è nel terreno, c'è anche un alto livello di arsenico, e l'arsenico, con la tecnica che vogliono utilizzare, che è questa del flash smelting, dove utilizzano altissime temperature per questa prima separazione, questo lavaggio, diciamo così, libera quantità di arsenico nelle polveri, nell'aria, e quindi è vietata, diciamo, è vietata sempre da queste regole europee, no? Che nei vari paesi questi limiti lasciano un po' il tempo che trovano, e sarebbe appunto non indicata in zone dove la presenza di arsenico è così alta, e tuttavia, insomma, utilizzeranno lo faranno ugualmente, hanno iniziato a disboscare, e inizieranno presto anche tutte le altre operazioni. I posti di lavoro fanno ridere, cioè i posti di lavoro. Volevo solo aggiungere, sì, una cosa, che in tutto ciò, appunto, in questo processo di trasformazione per consentire l'estrazione dell'oro, verrà utilizzato un quantitativo d'acqua enorme, che adesso la montagna rifornisce d'acqua anche 5-6 paesi circostanti, 25 paesi circostanti. Questa massa d'acqua si sta già riducendo, e per lo più verrà utilizzata, come dicevamo, per la trasformazione e il lavaggio di queste dei materiali per estrarre l'oro. E la maggior parte verrà, appunto, tramite soluzioni chimiche, verrà appunto resa non più fruibile, e verrà per giunta dispersa. Stanno infatti costruendo delle dighe, nei due bacini andranno le terre di riporto, no? Quelle una volta lavate, diciamo, sono degli invasi. L'acqua stanno praticamente prosciugando la montagna dall'alto verso il basso con una trivellazione, perché quando cominceranno le esplosioni e gli scavi e i lavori, non ci può essere acqua in quella zona, quindi piano piano la fanno scendere di livello, e il loro progetto così geniale è quella di raccogliere l'acqua in una diga che costruiranno praticamente al mare, per poi con delle pompe riportarla verso i paesi. È veramente un progetto, come dire, con una semplice così equazione, no? In cui uno prevede quali sono i costi e quali sono i benefici, qual è l'apporto di energia che dovrà essere speso, insomma, che è in negativo, assolutamente in negativo. Sì, ci fermiamo un attimo, va, così raccogliamo un pochino le idee. Κοίτα, μέσα στα μάτια να δεις εικόνες και λόγια της φωτιάς. Δεν θα τα δεις, λυπάμαι γιατί όλα γύρω σου γίνανε. Κι αν μου ζητά υπόσχεσαι για αυτά τα μέρη που πετάμε, δεν θα στα. αντισπώ, λυπάμαι γιατί. Όλα γύρω σου γίνανε. Στα τραγούδια κι αν γράψω, στους στίχους κι αν γεννήσω, εικόνες κι αν φτιάξω, στους κόσμους και να χτίσω, δεν φτάνουνε για να σε πείσω. Όσα τραγούδια κι αν γράψω, όσα τραγούδια κι αν γράψω, όσα τραγούδια κι αν γράψω, όσες ψυχές κι αν κάψω, όσες ζωές κι αν χάσω, κι όσες μείνω στον άσο. Άλλες τόσες θα πετάξω, άλλες τόσες θα σε φτιάξω, άλλες τόσες θα προδώσω, άλλες τόσες θα σε σώσω. Έχουμε μάθει μονάχα να κοιτάμε τι τρώμε, που πάμε, πως ζούμε, πως αγαπάμε. Λυπάμαι μα δεν πέφτω πλέον σε ατοπήματα και δεν ακούμε σε παραλληλόγραμμα και σχήματα. Αφήνω ακόμα την καρδιά μου ανοιχτή να σπινθεί ροβολή, νιώθοντας πάντα σκυρτήματα, παραμένοντας ένα συλλέκτη ζωής που παράγει ενέργεια μέσα από ηχογραφήματα. Κι αν με κοιτάς μέσα στα μάτια να δεις εικόνες και λόγια της φωτιάς, δεν θα τα δεις. Λυπάμαι γιατί όλα γύρω σου γίνανε. Κι αν μου ζητάς υποσχέσεις για αυτά τα μέρη που πετάμε, δεν θα στισπώ. Λυπάμαι γιατί όλα γύρω σου γίνανε. Έχουμε μάθει μονάχα να κοιτάμε και να πιστεύουμε μόνο ότι ακουπάμε. Μάτια κουπάμε, θα το ζητάμε. Έχουμε μάθει με τα μάτια να αγαπάμε. Ξυπνάω, κοιμάμαι, λυπάμαι που θυμάμαι. Κομμάτια από το story που γράφω καθημερινώς για μένα. Ένα προς ένα σκηνές, κινηματογραφικές εικόνες, φωτογραφίες και σκίτσα ζωγραφισμένα. Χαρτιά με στίχους από την πένα. Απογνωσμένα ζητάς να δεις αυτά που δεν είναι φτιαγμένα για σένα. Μπήκε στην πέτσα σου ο ρόλος, όντας μεγαλωμένος στο ψέμα. Σε φτιάξαν καθομοίωση, μαχική εικόνα. Και το δικαίωμα σου μάθαν πως είναι εξαίρεση μες στον κανόνα. Για μια άνοιξη, ένα θέρος, ένα φθινόπωρο και ένα χειμώνα. Για ένα γέρμα, για ένα γιώμα, για πάντα, για μια στιγμή, για ένα χαμόγελο και ένα τραγούδι που το φύτεψα βαθιά κι αυτό μέσα στο χώμα. Κι αν με κοιτάς μέσα στα μάτια να δεις εικόνες και λόγια της φωτιάς, δεν θα τα δεις. Λυπάμαι γιατί όλα γύρω σου γίνανε. Κι αν μου ζητάς υποσχέσεις για αυτά τα μέρη που πετάμε, δεν θα στισπώ. Λυπάμαι γιατί όλα γύρω σου γίνανε. Allora riprendiamo questo redazionale sulla situazione della lotta delle popolazioni in calcitica Grecia contro appunto l'estrazione mineraria, ripeto, a cielo aperto. Abbiamo parlato insomma un po' dell'impatto ambientale e abbiamo accennato anche al fatto che il governo greco si è assolutamente piegato, ma ben volentieri, alle pretese di questa multinazionale. Non rifacciamo tutta la storia, però di fatto c'è stata sul esiguo prezzo concordato per una concessione i cui proventi poi non andranno in nessun modo alla Grecia, c'è stato anche un rilievo da parte dell'Unione Europea appunto rispetto a quanto poco sia stata pagata questa concessione. E quindi, parlando ancora dell'impatto ambientale, volevamo fare un cenno anche, abbiamo parlato dell'acqua, del prosciugamento della montagna, no? E di poi questo giro che l'acqua, che naturalmente arrivava alle colture, alle popolazioni, dovrà fare per ritornare alle stesse. C'è anche il problema dell'acqua di risulta della lavorazione, dell'estrazione chimica del minerale sulla gran massa della terra mossa. E pure questo è un problema, no? Ce ne vuoi accennare? Delle acque dalla lavorazione. E vabbè, nel loro studio che hanno presentato ovviamente ci stanno le soluzioni a tutto. E le soluzioni a tutto: quest'acqua verrà ovviamente depurata, verrà filtrata, non lo so, verranno usati dei chelanti per pulirla e poi ritornerà probabilmente al mare. Il problema dell'acqua è un problema che già esiste adesso, che ancora non hanno cominciato. In paese l'acqua è molto ricca di ferro, ma anche di altri metalli, è rossastra, quindi non possono berla per il momento, quella delle case, insomma, quella del condotto comunale, e comprano l'acqua oppure la vanno a prendere delle fonti più pulite che loro conoscono. Quindi il problema c'è già adesso. In seguito si prevede di abbandonarlo quel posto, cioè le popolazioni che abbiano direttamente sotto la miniera, quello più vicino sta a 2,5 km in linea d'aria, quindi vi potete immaginare, e andranno via. Hanno già alcune persone con le quali abbiamo anche parlato, se cominceranno le esplosioni alle spalle se ne andranno, non avranno altra possibilità che abbandonarlo quel posto, non stare in piedi né l'agricoltura né l'allevamento né il turismo sul mare, per i paesi che stanno sul mare, assolutamente niente di tutto questo. Ma una cosa che mi ha colpito parlando con alcune persone era appunto, qui si prevede una, cioè questi elementi che esistono già in natura, questi metalli pesanti, perché parliamo di arsenico, piombo, cadmio e tanti altri, nel momento appunto poi in cui verranno fatte saltare appunto questi invasi, e si sprigionerà praticamente, calcolato in termini da queste relazioni fatte dall'Università di Salonicco, da alcuni professori universitari che volontariamente, diceva la compagna, si sono mobilitati proprio per valutare quelle che potranno essere le conseguenze, parlano di 3.000 tonnellate appunto di particelle che si sprigionerà, di particelle appunto composte di questi materiali di metalli pesanti, che si sprigioneranno non solo nell'acqua ma anche nell'aria. Allora, quello che facevano notare è che loro avevano presentato questa relazione senza avere, ovviamente non hanno potere decisionale, ma semplicemente è un trattato scientifico, quindi ha un suo valore, e ovviamente non è stato preso in considerazione, ma dicevamo è stata viceversa presa in considerazione una sorta di sintesi di impatto ambientale presentata dalla ditta, la quale comunque non nascondeva delle criticità, no? Quindi anche all'interno di questa valutazione di impatto ambientale presentata dalla ditta non si nascondevano appunto dei risvolti che avrebbe avuto tutto ciò sulla qualità dell'aria, dell'ambiente in generale. E quello che è stato che questi professori obiettano è che quantomeno, no, il beneficio del dubbio avrebbe in un paese normale avrebbe consentito di scartare, di mettere un veto appunto, no, al proseguimento di questi lavori, cosa che non è stata. E poi quando non eravamo in onda parlavamo anche appunto di queste piscine di raccolta che si faranno dell'acqua di risulta, no? E che dovrebbe essere depurata. E ricordiamo che, come ho accennato all'inizio, che questa è una zona mineraria da secoli, no? Quindi mi accennavi già di incidenti di con sversamento dell'acqua contaminata. Sì, sull'altro versante della montagna, su dove ancora ci sono le miniere attive, quelle che però vanno con i tunnel in profondità, dove ci sono i minatori che lavorano sotto a un chilometro sotto, forse anche di più, lì ci sono stati diversi incidenti, tra cui uno mi sembra nel 2002, l'ultimo, dove delle acque che erano state accumulate dalle precedenti lavorazioni degli anni precedenti si è aperta questa falla, c'è stato questo fuoriuscita, e la mattina quando si sono svegliati il mare era completamente rosso, cioè, e ci sono le foto che documentano questo, chiamiamolo fenomeno. E quindi il fenomeno non è come tutti gli altri fenomeni, ma anche meno naturale. In prospettiva, appunto, qui si tratta di masse d'acqua con una miniera a cielo aperto notevolmente più grandi, quindi il pericolo diventa ancora maggiore. Se su questo aspetto non avete nulla da aggiungere, passerei invece all'aspetto della lotta delle popolazioni locali contro questa devastazione. È una lotta che dura da anni, anche di questo abbiamo parlato, e quindi vogliamo un po' ricordarla e ricordare anche la repressione feroce che si è abbattuta su chi appunto ha condotto e sta conducendo questa lotta. Sì, niente, proprio ieri guardavamo un video con Paola, e dove venivano un po', diciamo, riassunte anche, no? C'era una cronologia di anche delle manifestazioni e delle battaglie che ci sono state su in montagna, ma non solo, anche di come si sono costituiti i comitati di lotta nei vari paesi, e come alla fine, insomma, si siano coordinati, diciamo, in un coordinamento dei comitati di lotta dei vari paesi, che hanno queste riunioni, diciamo, con varie scadenze, e poi in questo momento, che è una situazione di emergenza, perché su ci sono i lavori tutti i giorni, i bulldozer tirano giù questi alberi, e vedere gli alberi divelti, quelli secolari, con le è veramente triste, è veramente sì. C'è chi l'ha paragonato ai corpi morti ammucchiati, no? dai nazisti, questi tronchi d'alberi ammassati tutti in fila ai lati delle strade, e sembra proprio che abbiano strappato la pelle alla montagna, cioè tutto quello strato, no? che non lo so quanto sarà, un metro e mezzo di radici, di tutto l'humus, di tutta la sostanza organica sopra la roccia, è stato tirato via, quindi quella cosa lì non si riformerà facilmente, probabilmente non si riformerà mai, almeno in tempi insomma che una generazione assolutamente no. E le lotte quindi in questo momento sono presidi giornalieri davanti ai mezzi tecnici, davanti ai mezzi meccanici, vanno su persone, insomma, dei paesi, e vanno a contrastare come possono i lavori. Cioè, siamo stati a trovare una persona che ha la sua casa, la sua terra, vive su in montagna, una terra dei nonni, vive da sempre lì, ormai sono arrivati a 500 metri da lui, stava impazzendo quando continuava a sentire il rumore degli alberi che venivano giù, proprio questo rumore dell'albero che cade. E se ne stava andando via, non ne poteva più, e alla fine c'è stato un insomma, hanno presentato una denuncia perché i lavori non stavano avvenendo, comunque hanno cercato di mettere un po' i bastoni tra le ruote, oltre alla presenza fisica, a non farli passare in alcuni punti, però c'è stata una piccola vittoria, perché sembra che questi tagli che stessero facendo non erano a norma, quindi comunque le autorizzazioni ci sono. Poi questi qui lavorano non proprio a norma, diciamo, in questa situazione legale tra virgolette, e quindi il contrasto è lento e a piccoli passi in questo momento, mentre negli anni passati, anche l'anno scorso, dopo l'incendio del cantiere e l'arresto di alcune persone che si sono fatte mesi di carcere, lì c'è stato il momento delle grosse manifestazioni, il momento della grossa repressione della polizia nei paesi, che sono andati a fare rastrellamenti nei paesi per cercare i colpevoli, o hanno anche, questo l'avevamo già detto, insomma, hanno preso persone, tante, facendogli un prelievo del DNA illegalmente, pure questo nella legalità, per costruire una banca dati, che questo comunque è il fine ultimo, diciamo, un'operazione di polizia che va al di là della calcidica, E c'è stata una depressione grossa, con arresti, denunce su tante persone, cadono un sacco di denunce anche gravi. Quelle più gravi sono quelle a chi è accusato di aver appiccato l'incendio su al cantiere. E l'altro giorno ci siamo trovate al presidio davanti al tribunale, dove c'era una di queste udienze. Non si sa per quanto andranno avanti. Comunque tutti diciamo che stanno aspettando l'esito fuori adesso, non c'è più nessuno in carcere. Però continua l'operazione diciamo di indagine, e per cui più vanno avanti e più arrivano comunicazioni di presentarsi all'uno, all'altro, o accuse formulate, però prove indiziarie, sì. Insomma, solo indizi, tipo il cellulare spento, cose di questo genere, oltre al prelievo forzato e forzoso del DNA, che è stato fatto illegalmente, ma comunque continuano a fare. Non solo, ma certo la repressione è stata fortissima, perché le mobilitazioni sono arrivate e hanno toccato appunto non solo i paesi circostanti, non solo realtà apparentemente lontane e diverse, perché tutto ciò avviene sulla montagna, ma appunto Ierisosso, che è uno dei paesi coinvolti in queste retate e anche in questi arresti, è un paese di mare, insomma, è una popolazione più votata appunto al turismo, alla pesca, che non appunto alla coltivazione come sono gli altri paesi. Ma sono arrivati anche fino a Salonicco, perché anche a Salonicco c'è una mobilitazione comitati di solidarietà. Perché? Perché sanno bene che arriverà fino a lì. Stiamo parlando di 60 km in linea d'aria dalla zona interessata, quindi non è lontanissimo. Quindi queste polveri, l'acqua, sappiamo bene, camminano veloci. Dopodiché la repressione è stata talmente forte, ci sono appunto testimonianze, video, insomma, che circolano, insomma, anche su internet, e cioè stiamo parlando di popolazione, abitanti di 7 km di corteo, insomma, che è stato caricato violentemente, cioè lì abbiamo visto anche i proiettili di gomma, insomma, che vengono usati dalla polizia, di che stanza abbiamo tenuto in mano. Sì. E questa brutalità sicuramente anche a parere delle persone lì non c'è mai stata, insomma, in questi termini così brutale, per non parlare appunto anche lì a Ierisosso, dove è stato un paese presidiato praticamente, accerchiato, dove si è sparato dentro le scuole, si è sparato dentro in mezzo alle strade, sui balconi, infierendo proprio su cittadini inermi, su persone inermi, perché poi stavano semplicemente lì a abitare lì. E tutto ciò certo ha anche in montagna, poi le ultime manifestazioni che ci sono state violentemente represse, e quindi adesso certo c'è un periodo, ultimamente poi ci sono state elezioni amministrative, ci sono stati dei cambiamenti che un po' hanno in qualche modo squilibrato un po' la situazione politica, e comunque ancora continuano i presidi, insomma. Certo, lì è una zona, la montagna, non ci si può andare, è transennata, ci sono delle strade, gli accessi che sono chiusi, sono presidiati dalla polizia privata e pubblica, e quindi impediscono anche alle persone che vogliono andare a vedere che cosa sta succedendo, che cosa stanno facendo, come lo stanno facendo, impediscono di entrare. E anche quel, dicevamo, di questa persona che continua a abitare lì, a coltivare le api, perché in tutto ciò poi affronteremo il discorso del lavoro e delle promesse fatte, no? E viceversa i posti di lavoro si stanno perdendo, che sono tutti quelli legati a, per la nostra sensibilità, a quelli che sono i lavori ecosostenibili, quindi coltivazioni biologiche, le api e tutta una serie di appunto lavori che rivitalizzano il territorio invece che deprivarlo. Sì, volevo tornare un attimo all'aspetto della solidarietà, sì. No? Perché sicuramente Salonicco verrà investita anche a livello ambientale da questa devastazione, però certamente, insomma, non è solo per questo che soprattutto a Salonicco si sono creati dei comitati, sono state manifestazioni molto grandi in questi anni proprio nella città, però certamente l'aspetto è che se passa una cosa di questo genere, e purtroppo sta passando, e questo è il futuro che si prospetta, e non solo in Grecia ovviamente. Ricordo che anche in Romania c'è una lotta molto forte contro un problema analogo, proprio un problema di miniere a cielo aperto per estrazione. Rosa Montana esattamente. E adesso mi mancano un po' di notizie rispetto a quella lotta, ma sicuramente è stata una lotta ed è una lotta analoga, quindi è anche questo un aspetto che per esempio in Italia è sentito rispetto alla lotta no TAV, ma non solo ovviamente a questa. Ormai si tratta di un capitale che va avanti assolutamente senza tenere conto della distruzione probabilmente irrecuperabile che determina sia a livello di vite sia a livello di ambiente. Volevo tornare all'episodio di ieri SOS, no? A cui faceva cenno prima la compagna. C'è una situazione che vogliamo ricordare, perché all'indomani di questo assalto al cantiere della miniera, non ricordo esattamente quando è stato, c'è stata poi una reazione il 17 febbraio del 2013, esatto, e successivamente c'è stato proprio questo assedio, questo rastrellamento che gli anziani del paese hanno ricondotto immediatamente al periodo dell'occupazione nazista. Sono state bloccate le strade di accesso al paese, nessuno poteva entrare, nessuno poteva uscire, e la polizia antisommossa è entrata appunto nel paese operando un vero e proprio rastrellamento, come dicevi, lacrimogeni fino a dentro le scuole, rastrellamento di uomini, e quindi poi l'internamento in luoghi dove poi si è, senza assolutamente nessun mandato, portato avanti questo prelievo di DNA, che ha dato luogo a anche insomma numerosi arresti di cui ci parlavi. Una situazione che forse appunto dai tempi dell'occupazione nazista non si ricordava. Sì, questo episodio di ieri SOS è stato diciamo eclatante. Lì la polizia, insomma le forze dell'ordine, hanno voluto dare una dimostrazione insomma di quello che potevano fare, no? E non ci siamo chieste, ma anche con le persone di lì, come mai che comunque non è che l'attenzione si sia abbassata nei confronti di quello che sta succedendo, anzi c'è anche una grossa solidarietà internazionale se vogliamo, insomma, perché appunto che ne so, il luogo di interesse strategico per cui vengono espropriati i terreni senza che nessuno possa opporsi, il fatto che non si può accedere alla zona, non si può vedere che cosa stia succedendo, sempre perché è una zona di interesse strategico eccetera eccetera, dove si mischia appunto l'interesse dei capitali con l'interesse quello di come dire della politica, poi di trovare dei mezzi per tenerti fuori. E questo accomuna Skouries, accomuna la calcidica a tutti gli altri, a tutte le altre zone dove ci stanno devastazioni del territorio e lotte per poterselo riprendere. E l'attenzione a livello internazionale c'è, anche solidarietà, invece la partecipazione a livello locale fa fatica, sembra che si sia un po', c'è un momento di stanca. Allora una delle sicuramente delle cause è la repressione forte, perché appunto sfondamenti di porte, prelievo, cioè prendere le persone, portarle via, non sapere che fine hanno fatto, lacrimogeni, gente che si sente male, questo sicuramente, le pene che gli hanno promesso, e poi anche il fatto che ci sono state prima delle elezioni europee, ci sono state le elezioni amministrative. in Grecia, dove alcuni comuni hanno rivotato per il sindaco, e uno dei comuni che ha rivotato per il sindaco è questo della Calcidica, che lo ricordo è praticamente un sindaco unico per più paesi. C'è stata una riforma in Grecia qualche anno fa per cui non c'è un sindaco per ogni paese ma ce n'è uno per diversi paesi, e la Calcidica, non tutta, ha adesso questo nuovo sindaco. Tante energie sono state spese in questa campagna elettorale, dove il nuovo sindaco è contrario alla miniera, al contrario del sindaco precedente, che invece era uno dei fautori, uno dei sostenitori, era stato anche sottosegretario alle infrastrutture nel governo quello guidato dai socialisti, e l'aveva agevolata la multinazionale come aveva potuto. Questo era il sindaco precedente. Adesso ce n'è uno nuovo, votato dal un po' più del 50% della popolazione, perché lì pure siamo in clima un po' di guerra civile, metà e metà, e niente, tante energie sono state spese nella speranza che il cambiamento del sindaco fermasse in qualche modo lo scempio che stava avvenendo, ma sembra che queste decisioni vadano comunque oltre, che la comunità, almeno metà della comunità, fosse contraria all'opera era un dato già assodato, insomma. Il nuovo sindaco non potrà mettere le mani in un accordi più grandi che sono stati raggiunti tra il governo e la multinazionale e le banche che stanno aiutando, tra virgolette, la Grecia in questo momento. Sì, e quindi direi che un quadro per ora l'abbiamo fatto, e che dire, certo è una situazione tragica da un punto di vista, non tanto perché appunto ci prospettavi anche le difficoltà di chi comunque continua, questo va detto, a opporsi in tutti i modi a questa devastazione, ma anche perché per chi come voi viene appunto da un soggiorno in quella zona, sicuramente quello che noi non possiamo rendere per radio, che abbiamo cercato di spiegare, è comunque un territorio che già al momento, anche se non è ancora cominciata l'attività estrattiva vera e propria, già è visibilmente devastato, e quindi è facile immaginare quello che potrà succedere se in qualche modo tutto questo non si fermerà. Io volevo anche dire, tu hai accennato a questo video fatto appunto dalle comunità locali, dai comitati di lotta della zona, che illustra un po' la storia e poi appunto fa vedere chiaramente quello che sta succedendo e immaginare quello di ancora peggio che succederà. Quindi possiamo dire che sicuramente dopo l'estate cercheremo di farlo vedere il più possibile, per fare ancora anche in Italia aumentare il sostegno e l'attenzione rispetto a questa lotta. Fra l'altro incontri ci sono stati reciproci con la lotta Notav l'anno scorso al campeggio, mi pare in Val di Susa, dove compagni e compagne della Calcidica sono venute in appunto in Val di Susa per uno scambio di esperienze di lotta, anche per far conoscere questa lotta ulteriormente. Non ne parlano molti e molte purtroppo in Italia, certamente noi cerchiamo di fare quello che possiamo, quindi l'appuntamento è sicuramente per settembre, per una serie di iniziative che appunto porteranno ancora di più a conoscenza qui in Italia la situazione drammatica che sta vivendo la popolazione di questa bellissima, e speriamo che lo rimanga, zona della Grecia. Quindi se non avete altro da aggiungere mi dite di no, e quindi io volevo aggiungere i saluti dalla Calcidica, e niente, grazie, dicono grazie anche per questa, per il fatto di parlare semplicemente o di essere comunque solidali a questa lotta, e un saluto. Certo, e noi ricambiamo sicuramente, del resto ne abbiamo possibilità, i compagni e le compagne, gli abitanti e le abitanti della calcitica in lotta.